Tu non sei reale. Tu non sei reale. Perché? Tu lo sei? Tutto questo ti sembra reale? Guardati tu. Guarda! Un mondo costruito sull'illusione! Emozioni sintetiche sotto forma di pillole! Guerra psicologica sotto forma di pubblicità! Sostanze chimiche che ti alterano sotto forma di cibo! Lavaggi del cervello sotto forma di media! Bolle isolate e controllate sotto forma di social network! Reale? Vuoi parlare di realtà? Non siamo mai stati così lontani dalla realtà dall'inizio del secolo. Dobbiamo spegnere. Abbiamo tolto le batterie, abbiamo mangiato sacchetti di OGM. Mentre gettavamo gli avanzi nell'immondizia crescente della condizione umana. Viviamo in casa con il marchio di fabbrica delle multinazionali fondate su numeri bipolari che saltano su e giù su schermi digitali, ipnotizzandoci nel più profondo torpore in cui l'umanità abbia vissuto. Devi scavare in profondità. Prima di trovare qualcosa di reale. Viviamo nel regno delle menzogne! Un regno in cui hai vissuto fin troppo a lungo, quindi non accusare me di non essere reale. Non sono meno reale di quei cazzo di Big Mac che ti mangi. Fuoco alle polveri. Radio Bomba. Buonasera, bentornati su Fuoco alle Polveri, è la puntata numero 56 ed è il vostro Bricco Baldo che vi parla. Grandi compagnie, qua accanto a me c'è Joao, Grande Drago, abbiamo Lapo e abbiamo un sacco di ospiti. Per questo non perderemo assolutamente tempo. No. Abbiamo una puntata che prevede appunto la partecipazione di una rappresentante di Non Una Di Meno, che avrà tantissime cose da raccontarci, interessantissime, per poi passare a delle rubriche musicali, a un in punta di pedali con un ospite specialissimo e anche tanta attualità, cronaca fiorentina, cronaca nazionale, cronaca internazionale. Tutto. Sì, siamo tutto in attesa qua. Anche di notizie fresche, quindi aspettiamo un attimo a annunciare. Abbiamo un corrispondente, un inviato. Sì, dai. E 56 non ce ne frega niente del 56, è un numero strano. Ormai che... senza Tuco non si può fare questa cosa. Manca Tuco, signori, aspettiamo, è da segnare. 56 lui. Come la seconda puntata in cui manco Tuco. Giusto. E quindi niente, lanciamo la mandiamo una canzone, dai. E partiamo. Via. Wombat. You beg your pardon. Thank you. instructions with tongues, dear. You missed my eye, I wonder why I didn't complain. You missed my eye, I wonder why. Please do it again. The loving is a mess. What happened to all of the feeling? All of the feeling. I thought it was for real. Baby's rings and fools kneeling. And words are pledging trust and lifetime stretching forever. So what went wrong? It was a lie. It crumbled apart. Those figures of past, present, future haunting the heart. Ci risiamo. Facciamo un brevissimo, prima di partire alla nostra prima intervista di oggi, facciamo un breve aggiornamento in diretta di quello che sta succedendo a Firenze. Avrete visto e sentito che stamattina è stato ucciso un ragazzo senegalese su Ponte Vespucci. Al di là di tutte le considerazioni che si possono fare su un caso di cronaca che è appena avvenuto, è avvenuto da qualche ora, quindi forse è anche il caso di lasciare riposare la notizia. Assolutamente sì. Però volevamo appunto aggiornarvi su quello che sta succedendo a Firenze. Inizialmente è stato occupato il ponte Vespucci dalla comunità senegalese. E penso anche che ci siano anche dei solidali. E adesso è partito un corteo spontaneo sul Lungarno. Sì, ancora non sa bene verso dove è diretto, però abbiamo mandato appunto un inviato là che ci aggiornerà passo passo, e dopo ci proviamo a collegarci direttamente. Esatto, assolutamente. Il fatto, comunque, lo ripetiamo, è un c'è stata una sparatoria, una persona, un 56enne fiorentino, ha sparato da distanza ravvicinata 5 colpi di pistola contro un 6 colpi di pistola, mi dicono, contro un ragazzo proveniente dal Senegal che era lì per caso. Sì. Le prime notizie parlano di un omicidio casuale. Lui voleva suicidarsi, portare con sé qualcuno, e aveva deciso di farlo col primo che trovava per strada. La versione ultima è che lui voleva suicidarsi, è uscito di casa per quello, non ha trovato il coraggio di farlo e ha deciso, quindi sì, per non pesare sulla famiglia, di andare in prigione sparando a qualcuno. Ma questo è quello che tra l'altro trapela dagli interrogatori che sta facendo la polizia. Sì, in questura. Non sappiamo assolutamente nelle motivazioni che... Una cosa che però si sa è che io sono andato a vedere il profilo Facebook di questo tipo, e naturalmente non ne sono amico. Comunque, dalle foto che si potevano vedere, c'erano diverse foto con pistole di armi. Sembrava, insomma, molte di queste, sì, poligoni, armi, fucili, pistole. Quindi, insomma, questo è quanto. Ma andiamo avanti perché i tempi sono molto molto stretti. Ci avviciniamo a marzo, è iniziata, come tutti sapete, a inizio marzo c'è un appuntamento imperdibile. Si parla dell'8 marzo, giorno nel quale si svolgeranno tantissime manifestazioni un po' a giro per tutto il mondo, organizzate dalla rete, non una di meno, rete che è qua presente quest'oggi con un attivista. Isabella, buongiorno, buonasera. Ciao a tutti e a tutte. Ciao. Benvenuta a Radio Wombat. Grazie, si sta molto bene qui. Vero, caldo, eh? Tranne la temperatura, per il resto è tutto molto gradevole. La temperatura è così, è estrema. Ma scalderemo noi le onde radio della città. Sì. Allora, dunque, non una di meno, raccontaci un po', non una di meno che cos'è? Allora, non una di meno è una serie di collettivi che si articolano nei territori di tutta Italia. Non una di meno è due grandi cortei nazionali che si svolgono il 25 di novembre. Ovviamente la ricorrenza del 25 di novembre è iniziata già da qualche anno, ma gli ultimi due cortei sono, diciamo, l'anno che ci siamo date per produrre un piano femminista contro la violenza maschile, e effettivamente ce l'abbiamo fatta. Il 25 novembre dell'anno scorso la manifestazione è stata veramente una marea, e da allora abbiamo cercato di continuare a muovere le onde di questa marea. Ci sono state almeno 3 assemblee nazionali e tantissime assemblee territoriali per arrivare a una scrittura collettiva di questo piano, in cui vengono affrontati veramente tantissimi temi che riguardano la violenza maschile sulle donne e la violenza di genere in generale, insomma in termini più ampi. Questo perché? Perché comunque in Italia il fenomeno della violenza sulle donne credo che sia evidente a tutti, basta aprire un giornale e leggere i casi di cronaca e vedere quotidiano. Purtroppo quotidiani, purtroppo spesso non solo, come dire, su donne maggiorenni ma anche su minori. A questo punto sono tantissime, e pensate a quanti invece non emergono perché si svolgono fra le pareti di casa. Il governo italiano ha fatto una legge che parla di violenza sulle donne, e a noi questa legge non basta. Il piano che per il contrasto della violenza che in quella legge era contenuto non è mai stato scritto, e quindi abbiamo pensato bene di scriverlo dal basso, col nostro linguaggio, con le nostre parole e con i nostri temi. Esatto. La prima cosa, secondo, che vorrei farti puntualizzare è: violenza sulle donne, violenza di genere? Qual allora, è la differenza? Effettivamente, se potete scaricare il piano dal blog di Non Una Di Meno, quindi se cercate online Non Una Di Meno trovate subito il blog e potete andarlo a scaricare, e il sottotitolo del piano è proprio Piano femminista contro la violenza maschile sulle donne e violenza di genere. Perché abbiamo voluto specificare questa cosa? Perché vogliamo parlare sia, diciamo, della violenza che appunto può essere agita da un soggetto maschile nei confronti di quello femminile, quindi il classico caso, diciamo, della violenza spesso e volentieri da parte di compagni e di ex compagni, ma più in generale di quella violenza che viene esercitata dal fatto che culturalmente prevediamo l'esistenza di due generi, quindi o sei un maschio o sei una femmina, e invece ci sono tantissime persone che in questo binarismo ci stanno molto stretti, o perché non aderiscono completamente a questo canone, o perché si muovono all'interno di questo binarismo. Io posso nascere biologicamente donna, quindi il mio sesso biologico può essere quello di una donna, ma sentirmi un uomo e quindi fare nella mia vita un percorso di liberazione e di transizione verso ciò che mi sento veramente di essere. Tutte queste persone ovviamente subiscono una violenza, perché non è facile uscire dal canone, così come non è facile per una bambina decidere che gli piace giocare a calcio, o per un bambino decidere che gli piace giocare con le bambole, eccetera eccetera. Questo perché il genere è culturalmente determinato, e nella nostra società è determinato in maniera molto stereotipata, e quindi o ci stai dentro oppure in qualche modo puoi essere vittima di violenza intesa come discriminazione, offesa, violenza fisica, violenza verbale, eccetera eccetera. C'è un perché specifico, secondo te, perché questo succede? Diciamo che se volessimo usare una parola, io userei la parola patriarcato, anche se può sembrare un pochino, come dire, obsoleta, vecchia, eccetera, eccetera, o vetero-femminista, ma non illudiamoci, il patriarcato c'è, il patriarcato è quello che vuole che rimangano dei privilegi, e che questi privilegi siano soprattutto per gli uomini, così come i privilegi dovrebbero essere soprattutto per i bianchi rispetto alle persone di colore. Quindi quando parliamo di privilegio guardiamo a tante posizioni che occupiamo nella società. Le donne sono in una condizione inferiore, quindi è bene che sono quelle che poi si occupano di un lavoro invisibile, che è il lavoro di cura. Quindi non c'è solo il lavoro produttivo, ma c'è anche il lavoro riproduttivo, e quindi in qualche modo si preferisce che rimangano queste divisioni e questi privilegi, in modo che qualcuno possa esercitare la sua forza su il genere cosiddetto, diciamo, più debole o vittima. Esatto, quindi voi mettete, diciamo, a braccetto la violenza di genere e il razzismo, a quanto ho potuto leggere sul vostro piano. Allora, nelle prime pagine del piano ci sono due termini che sono fondamentali e fantastici, io direi, e che fanno parte un po' di quella che è l'elaborazione del femminismo. Il primo è dire che abbiamo adottato una politica del posizionamento, ovvero noi partiamo nella scrittura di questo piano, così come nel nostro agire politico e quotidiano, dal posizionarci nel mondo rispetto a quella che è la nostra condizione di donne, di precarie, di magari donne di colore, migranti, sex worker, eccetera, eccetera. In più, ovviamente, tutti questi piani si vengono a intersecare, e qui si parla di intersezionalità, e quindi si possono mischiare condizioni svantaggiate con condizioni svantaggiate. Immaginati come sarebbe la tua vita se invece di essere un ragazzo bianco di una città di Firenze, di condizione economica media, tu fossi una sex worker immigrata di colore, che quindi non ha nessun tipo di riconoscimento, un lavoro appunto che non esiste, non ha copertura assicurativa e magari non hai nemmeno una rete sociale alle spalle. Lì i tuoi svantaggi si sommano, e quindi per forza di cose noi siamo antisessiste, antifasciste e antirazziste. Esatto, anche perché appunto dal vostro piano io ho letto che secondo voi la violenza di genere è solamente la punta di un iceberg che poi va invece a condizionare tantissime sfere della, tutte si può dire le sfere della nostra vita, maschi e femmine allo stesso modo tendenzialmente. Noi diciamo che la violenza è sistemica, proprio per dare l'idea di quanto se ne possano rintracciare le forme e le modalità nei vari ambiti della vita, dall'educazione alla salute, ai diritti mancati, alle migrazioni, eccetera, eccetera. Come donna, se uno pensa, ma probabilmente anche come uomo, ecco, alle varie situazioni della sua vita, ai vari ambiti della sua vita, veramente tantissimi di questi è possibile rintracciare i segni della violenza. Tant'è vero che la scrittura del piano è stata articolata in 8 tavoli tematici, proprio per dare conto delle sfumature e delle modalità della violenza in tutti questi ambiti dell'esistente. Purtroppo non avremo il tempo per parlare di tutte e 8, ma almeno alcuni ci preme invece affrontarli. Partiamo dall'educazione. Allora, tema molto caro, perché appunto se abbiamo detto che il genere è culturalmente determinato, lavorare sull'educazione, su un'educazione di qualità, è il primo modo per uscire da questo binarismo e per uscire dalle forme di violenza. Noi diciamo spesso c'è un coro che dice che il maschio violento, diciamo, non è uno che impazzisce, ma è un po' il frutto di questa cultura, no? Io mi sento di poter agire violenza su una donna perché vivo in una cultura che mi fa sentire in ogni momento che la donna è inferiore, e quindi anche io posso farle violenza. Ti legittima quantomeno, sicuramente. Sì, ti senti appunto di poterlo fare, anche se magari è la tua compagna, la madre dei tuoi figli, eccetera, eccetera. Quindi investire sulla cultura è il primo modo per cercare che le prossime generazioni non incarnino questo tipo di stereotipo e non lo riproducano. Gli insegnanti, maschi o femmine che siano, sono cresciuti in questo tipo di società e quindi ovviamente hanno anche introiettato questi tipi di stereotipi. L'esempio più banale, l'insegnante che dice alla bambina di non stare seduta a gambe aperte perché lei è una femmina e non è un maschio e quindi deve essere composta, piuttosto che l'insegnante che dice al bambino che non deve piangere perché lui non è una femminuccia. Qui tu come insegnante hai già un curriculum implicito di come devono essere i maschi e le femmine, e lo stai riproponendo a quei bambini e a quelle bambine, che quindi crescono con determinati stimoli. Quindi ovviamente agire sulla cultura è fondamentale per disinnescare il fenomeno nell'immediato e soprattutto per far sì che le future generazioni possano vivere in maniera più libera e autodeterminata. Quanto conta il linguaggio, quindi la grammatica italiana, secondo te, in questo processo? Cioè, quanto può contare il cambiare il nostro utilizzo della grammatica italiana con un'attenzione alla questione di genere? Allora, secondo me è soprattutto una questione di immaginario e di sentirsi rappresentate. Usare il maschile e il femminile, come ho fatto io banalmente salutando tutti e tutte, come magari faccio quando inizio le lezioni, eccetera, eccetera, è un modo per includere tutti e far sentire tutti rappresentati. Purtroppo si tende a dire che nella lingua italiana il plurale è al maschile e quindi che le donne dovrebbero sentirsi incluse in questo insieme. E non è così. Si può benissimo spendere qualche secondo in più, un po' più di fiato, un po' più di inchiostro, o usare le varie asterische, chiocciole, eccetera, eccetera, per rappresentare veramente tutti. In più, ti dicevo, c'è un problema di immaginario, e questo lo dico in particolare quando penso alle professioni, al fatto che le professioni, soprattutto quelle più importanti, sono sempre declinate al maschile. C'è la maestra, ma l'ingegnere. C'è il presidente, magari non si dice mai la presidentessa. Esatto, e quindi lì stai incanalando l'immaginario di bambini e bambine su quello come potrà essere il loro futuro. Normalmente si tende a prospettare alle bambine tutte quelle professioni che riguardano la cura dell'altro, no? L'infermiera, la maestra, eccetera, eccetera, mentre agli uomini ci si propone un immaginario più di esploratore che può arrivare dovunque, l'astronauta, eccetera, eccetera. E quindi usare un linguaggio che invece declina sia al maschile che al femminile tutte le varie possibilità vuol dire lasciare aperta la strada. Benissimo, per passare a un altro punto, volevo chiederti riguardo alla sicurezza nelle nostre città, come la interpretate voi, quali proposte lanciate per il miglioramento di questa situazione? Diciamo che questo è stato un tema caldo della campagna elettorale e con le vicende di Macerata abbiamo toccato assolutamente l'apice. Noi come donne non abbiamo bisogno del principe azzurro e tantomeno abbiamo bisogno di qualcuno che ci difenda con le pistole sparando a persone a casaccio. C'è da sfatare un mito, cioè che la violenza sulle donne sia agita principalmente da migranti. Non sono le donne bianche che hanno bisogno di essere difese dall'invasore nero o dall'altro di colore, ma sono le donne che hanno bisogno, che non hanno bisogno di essere difese, che hanno bisogno di autodeterminarsi e difendersi da sole. Per cui quando noi diciamo che le strade sicure le fanno le donne che le attraversano, diciamo esattamente questo: non vogliamo essere difese da chi che sia, soprattutto se incarna, come dire, valori assolutamente razzisti. Le donne non sono vittime e quindi semmai si devono autodifendere ed eventualmente devono sentirsi di poter uscire di casa come vogliono, indossando le minigonne, le mutande rosse, quello che gli pare, e non per questo doversi preoccupare di legittimare delle attenzioni particolari da parte degli uomini. Lì siamo già a io che mi devo limitare, perché tu se no, povero maschio, non puoi resistere. Assistenza, autonomia e non assistenza, dico bene? Autonomia e non assistenza. Purtroppo la legge sulla violenza che è stata fatta non va molto in questa direzione. Prevede ad esempio il fatto che la denuncia possa non essere fatta dalla donna, ma anche, come dire, da chi pensa che lei stia subendo violenza. Quindi in qualche modo si stimola un meccanismo della delazione. Invece la cosa fondamentale per un percorso concreto e efficace di uscita dalla violenza è che la donna si possa autodeterminare. Non è una cosa facile, ci sono tantissime donne che non ce la fanno e che magari rimangono in una situazione di violenza per anni, proprio perché magari è il tuo marito, hai dei figli, c'hai una precarietà economica che non ti immagini nemmeno come potresti fare concretamente ad andare via di casa e come dire, uscire da questa situazione. D'altro canto è solo attraverso l'autodeterminazione che questo percorso può essere vero, se no continuerai ad avere qualcuno che sceglie per te. Anche nel momento in cui devi denunciare e finalmente liberarti da un grande male della tua vita, è qualcun altro che lo sta facendo per te. Quindi l'autonomia è fondamentale. E in questo senso a noi piace ricordare che i centri antiviolenza nascono dall'auto-organizzazione delle donne, quindi sono nati da percorsi di solidarietà al femminile, di lavoro comune, di autodeterminazione, e queste caratteristiche sono fondamentali. Non si può rendere i CAV, centri antiviolenza, un servizio come un altro. Devono mantenere questo tipo di caratteristica ed eventualmente, come dire, si dovrebbe rafforzare il finanziamento invece che andare a tagliare quelli che sono i contributi pubblici, riconoscere la necessità di questo tipo di servizio e anche la peculiarità di questo tipo di declinazione e continuare a dargli spazio. Purtroppo non è così, sono ormai gli ultimi anni, viviamo di tagli a quello che sono tutte le azioni sul territorio per il contrasto della violenza maschile. E, purtroppo non abbiamo tantissimo tempo, quindi dovremmo andare un po' veloci. Le ultime due cose volevo chiederti riguardo invece alle azioni che state portando avanti sui temi della salute e sui diritti sul lavoro. Ok, allora, anche queste sono due tematiche direi enormi. Sulla salute, credo che sia abbastanza noto che c'è un problema fondamentale nel nostro paese, si chiama obiezione di coscienza, per cui anche quelli che sono diritti che sono già sanciti da alcune leggi, sto parlando della 194 del diritto all'aborto, diventano effettivamente poi nella pratica difficili da esperire, da raggiungere. Non lo auguro a nessuno, però voglio dire, provate voi a essere incinta a voler abortire, andare a fare le file negli ospedali, a essere trattate male, eccetera eccetera. Questo non è, è lesivo della dignità delle donne. Oltre al fatto che appunto c'è una parte di movimento culturale che vorrebbe anche lì decidere per le donne, no? Quindi se sei incinta, contra più il fatto che tu abbia forse una futura vita dentro di te, piuttosto che il fatto che tu ti possa autodeterminare, ecco. Quindi in realtà quello che noi insomma chiediamo un po' anche attraverso il piano è che la salute della donna venga un po' slegata da questa dimensione che ci riduce nella dinamica riproduttiva. Anche spesso e volentieri medicalizzata, e qui mi riferisco al numero di volte in cui viene praticato il parto cesareo piuttosto che mettere la donna in condizione di scegliere e dargli il tempo anche magari per fare un parto naturale, ma anche molto di più. Ci piacerebbe che la salute della donna fosse, come dire, rivolta anche verso quello che è il piacere come cardine della salute della donna. Quindi non solo il fatto che io posso scegliere di essere madre, ma il fatto che come donna, diciamo, io possa fare delle scelte anche che mi danno piacere. Qui ritorno per esempio sul tema della transizione di genere, quindi anche sul fatto che mi sia permesso e mi sia, senza che io debba avere magari una diagnosi psichiatrica di disforia di genere, di andare verso quello che è il mio effettivo desiderio. Sul piano del lavoro parliamo ovviamente di precarietà. Una precarietà che per le donne spesso e volentieri è ancora più forte, proprio perché se diventi madre e per un periodo di tempo sei fuori dal mercato del lavoro, poi è ancora più difficile rientrare. Una precarietà che è più forte per le donne perché parliamo di salari che sono significativamente inferiori a quelli degli uomini, anche se a parità di lavoro e a parità di mansioni, e quindi parliamo di un mondo del lavoro che è sempre più difficile, anche perché ci sono i tagli al welfare, quindi ovviamente se non c'ho l'asilo nido probabilmente rientrerò a lavorare, se me lo posso pagare o me lo posso permettere, molto più tardi. Quindi ecco le problematiche, come dicevo, la violenza è sistemica perché si riverbera un po' in tutti gli aspetti. Assolutamente, in tutto questo noi rilanciamo l'evento dell'8 marzo, che è giovedì se non mi sbaglio. Sì. Appuntamento dove? Allora, appuntamento alle 15.30 in Piazza Santissima Annunziata, staremo in piazza per un paio di ore, ci saranno delle dinamiche di teatro dell'oppresso e qualche altro momento artistico, musica e allestimenti, per poi partire in corteo verso le 17.30-18 e l'arrivo è previsto in Santo Spirito. Per la giornata dell'8 marzo avete inoltre lanciato uno sciopero internazionale, uno sciopero globale, scusami, della produzione e della riproduzione. Vorrei un attimino farti spiegare questo concetto, ricordando a tutte e tutti che sul vostro sito, che è Non Una di Meno, sì. Punto noblogs.org, mi sembra, però ora mi fa venire il dubbio amletico. Cioè, avete pubblicato un vademecum per l'adesione allo sciopero, dove vengono specificate, vengono date indicazioni anche piuttosto precise sul come poter aderire a questo sciopero. Allora, lo sciopero dell'8 marzo è uno sciopero internazionale, effettivamente nasce da un appello che viene dalle compagne argentine, quindi è giustissimo definirlo così, o globale che sia. È uno sciopero femminista, ovvero si ritorna alla natura iniziale proprio di quello che è stato lo sciopero inizialmente anche nei primi anni in Italia, cioè uno sciopero politico, quindi non solo per rivendicare dei diritti nell'ambito del lavoro, ma più per far sentire le proprie ragioni su quello che è appunto l'analisi che noi abbiamo fatta della situazione della società per le donne rispetto al tema della violenza. È anche uno sciopero effettivo, quindi è stato indetto da alcune sigle dei sindacati di base, sia per l'impiego pubblico e quello privato, e quindi i lavoratori che hanno la copertura sindacale, che ahimè forse non sono nemmeno così tanti, diciamo molti o quantomeno molti hanno sicuramente lavori precari, possono formalmente aderire allo sciopero. Questo però non vuol dire che se uno non ha un lavoro a tempo determinato o indeterminato non possa aderire. Essendo appunto uno sciopero politico, le forme di adesione sono le più varie, dal fatto di mettere una risposta automatica nella propria mail in cui si dice io oggi non lavoro perché faccio sciopero femminista e quindi vi risponderò, sarò disponibile nuovamente solo da domani, al fatto di venire in piazza e partecipare al corteo. Quindi noi invitiamo anzi alla pluralizzazione delle forme di adesione, perché ci rendiamo conto che il diritto allo sciopero ormai è quasi un privilegio di chi ha alcune forme contrattuali, però ecco, l'idea è un po' quella. Non solo, ma l'invito è quello di pensare allo sciopero come sciopero dal lavoro produttivo e quindi dal lavoro insomma più classicamente inteso, ma le donne sono invitate a scioperare anche da quello che è il lavoro invisibile che fanno, quindi tutto il lavoro di cura, pensiamo alla cura dei bambini, delle persone malate, dei familiari, il lavoro domestico, fare le lavatrici, stirare, eccetera, eccetera, e quindi anche... una forma di adesione può anche essere quella di dire oggi comunque io tutte queste cose non le faccio e vado a manifestare con le mie compagne e i miei compagni in piazza. Benissimo, allora non ci rimane. Io in che... realtà aspetta un attimo, stai buono, dove vai? Io ho una mezza domanda, non è una domanda, un po' una cosa così, che avevo letto sul vostro sito del passaggio tra, che è comunicativo ma è anche sostanziale. Dammi ma tu. Intanto hai visto il sito, è NoBlogs. In realtà è WordPress. Quindi non una di meno punto sì. WordPress.com. Sì, esatto. Ok, almeno diciamolo giusto, così per dare l'indicazione sì. Per chi volesse approfondire e scaricare il piano. Vai. No, era il passaggio comunicativo e poi anche di sostanza in realtà dall'hashtag che è stato estremamente celebre durante gli ultimi mesi di MeToo. Lanciato soprattutto da star cinematografiche e personaggi pubblici come denuncia nei confronti della violenza sui set cinematografici e in generale il mondo dello spettacolo a un altro hashtag che è quello che state usando, che è We Together. Esatto. E mi sembra un passaggio abbastanza importante in realtà. Grazie Joao per averlo nominato e ricordato. Il MeToo appunto è la campagna che è nata dopo denunce direi eccellenti di violenza che poi si sono espanse diciamo dal contesto americano e anche al contesto più nostrano e che ha poi coinvolto, è diventata virale perché ha coinvolto possibilmente diciamo donne di tutto il pianeta, hanno aderito, noi in Italia ci siamo inventate anche hashtag insomma un po' italianizzati. L'idea è quella di un po', è toccata anche a me, cioè effettivamente sì. La violenza è talmente diffusa che non per forza magari sono stata vittima di stupro, ma probabilmente ho provato sulla mia pelle la violenza di genere, anche solo e semplicemente, e qui semplicemente è ironico, attraverso complimenti non desiderati che mi hanno fatto sentire in difficoltà o mi hanno fatto sentire in pericolo mentre tornavo a casa. Il passaggio al We Together è l'idea che appunto la solidarietà fra donne sia un'arma da utilizzare per superare questo stato, per darsi voce insieme e riuscire quindi a rivendicare quelli che possono essere, che dovrebbero essere gli ambiti di cambiamento e le cose da migliorare. In questo senso il piano femminista che è stato scritto collettivamente è sicuramente un We Together, cioè insieme le donne hanno una forza che è propulsiva, insieme le donne possono affrontare anche i casi di violenza e sta succedendo anche questo, ecco, nei vari collettivi territoriali di Non Una di Meno iniziano ad arrivare anche donne che hanno subito violenza e che hanno voglia di condividerlo con le compagne per trovare insieme la forza di denunciare, perché non nascondiamoci che denunciare è molto difficile, perché poi sotto processo ci finisci tu e non la persona, l'uomo che ti ha fatto violenza. Il caso delle ragazze americane stuprate da due carabinieri è eclatante. Nell'incidente probatorio si sono ritrovate a subire delle domande che erano imbarazzanti, tant'è vero che il giudice ha bloccato le domande dell'avvocato dicendo che erano lesive della dignità di queste persone. Ora, in questo caso è andata bene, c'era un giudice che comunque ha posto un freno, ma sfido io chiunque a essere vittima di violenza, trovare la forza di denunciare e poi essere lei sotto processo a dover dimostrare la propria integrità e la propria dignità. Ti ringraziamo tantissimo a questo punto, direi che Volevo ci dire un'ultimissima Vai. Cosa. È uno sciopero femminista, ma ovviamente è aperto a tutti gli uomini. Non è un'iniziativa separatista, anzi, la violenza di genere probabilmente è qualcosa che sentono anche molti ragazzi che devono stare dentro a un canone che può essere quello del maschio alfa o macio e che magari non gli corrisponde e con cui non si sentono bene o comunque... O semplicemente che non gli va bene quello dello stereotipo. Cioè, esatto. E quindi l'invito è a partecipare a tutti e tutte, donne, uomini, M2F, F2M, eccetera. Il mondo è bello perché è vario. Evviva. Lo pensiamo anche noi. Allora, giovedì. Ciao, grazie mille. A giovedì, grazie a Radio Wombat. Yeah. Ciao. Ciao. Te l'hai insegnato a fare male se, se non smette chissà. Te l'hai insegnato anche ad odiare, l'odio la consuma. Te l'hai insegnato forti cose che bruciano la sua età, e le ha insegnato anche a non credere. Rieccoci. Allora, okay. Ciao. Senti, andiamo avanti. Noi ringraziamo ancora Compagni in uno di meno. È stata soprattutto, oltre ha detto cose molto interessanti, è stata anche molto chiara, che non è sempre semplicissimo. Della tana del Wombat, essere chiari. Sì, è vero, sono d'accordo. È vero. E... senti, altra faccenda poco chiara per ora. Sì, altra faccenda poco chiara è quella che accennavamo prima. Adesso cerchiamo, accennavamo prima sulla, appunto sul, sull'uccisione di oggi, insomma stamattina, di Idi Diene, che è un uomo senegalese di 54 anni, ucciso da tal Roberto Pirrone di 65, un amabile italiano che ha deciso di fare questa cosa. E al di là appunto della notizia in sé, noi siamo abbastanza curiosi di avere aggiornamenti in diretta da quello che sta succedendo in questo momento a Firenze, su Lungarni, per cui prima la comunità, una parte della comunità senegalese ha occupato il ponte dove è avvenuto questo fatto, il ponte Vespucci, e adesso insomma pochi minuti fa era partita in, in un corteo spontaneo. Adesso dovremmo avere, secondo i nostri calcoli, un inviato speciale che l'ha a seguire per noi e per, anche per se stesso e anche per tutti gli altri. Il, eccoci, sentite il tu peso. Pronto? Così, sì, pronto. Ciao Wombat. Ciao Andrea. Ciao. Siamo in diretta? Siamo in diretta su Radio Wombat e abbiamo un attimino parlato della faccenda successa stamattina, poco perché sì. Le notizie sono veramente minime, e se ci sai dare delle precisazioni su quello che è successo e anche su quello che sta succedendo naturalmente. Allora, su quello che è successo questa alle 12 in tarda mattinata, inizio pomeriggio, ovviamente no. Posso dirvi quello che sta succedendo adesso. È stato un corteo spontaneo, è partito dal ponte di Amerigo Vespucci, ha fatto tutto il Lungarno e siamo infine giunti davanti al Palazzo Vecchio. Sono una cinquantina di persone, prevalentemente della comunità senegalese. In piazza c'è anche uno storico rappresentante della comunità che è seduto anche alla consulta in anni passati. Io purtroppo non le riconosco perché da poco mi sono trasferito a Firenze, però mi hanno detto che si chiama PAP e quindi sono scelti dei rappresentanti delle istituzioni comunali, ovviamente è anche pieno di polizia in borghese che tengono d'occhio la situazione. Quello che però posso capire, perché prevalentemente si parla in Wolof, è che c'è anche lacerazione all'interno dei manifestanti, tra una parte che cerca essenzialmente di trasformare questo corteo in un incontro con una rappresentanza con le istituzioni comunali, e invece una parte che è molto sfiduciata, ma forse di più arrabbiata. È molto arrabbiata e probabilmente, mi pare, però è una mia lettura, ripeto, potrei sbagliarmi, anche di contraddittorio la propria rappresentanza. Le slogan era basta razzismo, Italia vergogna, che schifo, siamo venuti in questo paese, ci ammazzano. Ecco, questo è quello che si dice, che si riesce a cogliere dalla piazza. Se avete delle domande, altre domande... Ma per ora io direi che ci hai detto bene quello che sta succedendo. Direi che ci potremo tenere in contatto e se ci sono novità ci fai sapere. Sì, se posso fare un appello a tutti i compagni e le compagne di precipitarsi, di venire, perché lo so che adesso è così all'improvviso, però ovviamente c'è bisogno di solidali presenti in piazza. È vero. Rinnoveremo l'appello più volte anche durante la trasmissione, vediamo se okay. Serve a qualcosa. Bene Andrea, grazie. Vabbè. A prestissimo. Ciao. Buono. Dai, questo era l'aggiornamento che arrivava dalla piazza, a questo punto da Piazza Signoria, quanto ho capito. E il peso, effettivamente appello a chi può ad accorrere, ad andare, perché c'è bisogno di solidarietà in questi momenti, nel senso che effettivamente sono momenti anche, capisco anche quello che diceva il nostro amico. Assolutamente, c'è bisogno dell'aiuto di tutti e del supporto di tutti, di quante persone possibili. Cioè anche di come possono emergere delle contraddizioni all'interno di questi momenti, nel senso che se c'è una parte che cerca il dialogo con le istituzioni, e c'è sempre stata all'interno del, anche della comunità senegalese, è evidente e naturale che emergano anche dei contrasti e dei momenti di rabbia, perché la situazione, poi quantomeno a Firenze, nel senso che già il secondo episodio del genere è una cosa abbastanza incredibile, in giro di pochi anni che vengono ammazzate a pistolettare le persone per la strada in questo modo. Di sicuro, se non possono contare poco o nulla sulle istituzioni, che come vediamo ogni giorno sbolognano qualsiasi tipo di fascismo, forma di fascismo e razzismo, a maggior ragione è importante, come diceva il compagno, far sentire la solidarietà e essere presenti in quanto comunità solidale, esatto, antirazzista, perché proprio perché appunto da questi episodi di razzismo che vengono subiti non si fomenti da entrambe le parti un razzismo o comunque una sfiducia, una paura del diverso, del, certo, dell'altro. Quindi ribadiamo a chi può accorrere in Piazza Signoria. Sì, assolutamente. Assolutamente. Per tornare alle cose nostre, invece, per tornare un po' alle cose nostre, farvi un dobbiamo riavvolgere un attimo il disco e tornare a ieri pomeriggio e a ieri l'altro sera, dove presso i locali della Polveriera e del Next Emerson è successa una cosa incredibile, perché il Wombat ha deciso di uscire dalla sua tana e comunicare con tutti voi, con tutti noi, attraverso l'etere. Perché, ma con tutto il mondo, poi, con, ragazzi, tutto il mondo, e quello è il ganso. Esattamente, perché possiamo, abbiamo già annunciato, la ripetiamo, la nostra frequenza è la 1359 AM. Sì. E abbiamo presentato sabato al Next Emerson, c'è stata una serata con cena, con un documentario che si intitola Boconas, riguardo a una radio boliviana. Ci sono stati diversi concerti, fra i quali uno spettacolo bellissimo, una performance bellissima di CCCCNCNCN. Inizialmente eravamo tutti un po' perplessi, però devo dire voi che poi eravate perplessi. Io ero perplesso all'inizio, io però con fiducia. Anche alla fine, io invece alla fine mi sono gasato abbastanza. Mi è piaciuto, sì. Veramente molto, molto. Comunque da sperimentare, è una roba che va avanti anche, mi sa, anche che da diversi decenni. Boconas parlava delle una radio comunitaria organizzata e gestita dalle Mujeres Creando, sì, un gruppo di donne boliviane. Quindi si rimane, sì, si gira intorno ai temi. Se ve lo siete perso, mi dispiace, ci dispiace per voi perché ve lo siete persi, sì, mentre la giornata di domenica, di ieri, la potete fortunelli ritrovare siete in podcast, perché siete fortunelli e noi siamo bravi, a gamba. Sì. Quindi abbiamo fatto dei podcast, si tratta di un dibattito fra Radio Wombat e altre radio a noi simili, sorelle, cugine, si può dire, fra le quali Onda compagne, Rossa, compagne. Radio Onda Rossa da Roma, Radio Blackout da Torino, Radio Onda d'Urto da Brescia, poi avevamo i ragazzi di Radiogramma da Genova, che sono compagni di avventura nostro, perché loro stanno per andare sulle frequenze M così come noi, sì, e anche stessa compagni, frequenza, sei stata a Genova, stessi numeri, vi potete ricordare 1359. Assolutamente, esatto. Mentre prima di questo dibattito c'è stato un workshop, sì, sul radioascolto, dove bellissimo, Francesco, ragazzi, ci ha spiegato come poter ascoltare la radiolina nei tempi moderni, e delle cose che e io... ascoltarti cose soprattutto, cioè cose incredibili, ti puoi ascoltare dalla torre di controllo dell'aeroporto al telegiornale di Teheran, cioè. Radio, esatto, iraniana, tutto... Mediterraneo e oltre, esatto. La cosa migliore da fare, abbiamo scoperto, per far questo è andare in cima a una montagna, sì, sì, per le interferenze che sia i nostri, sì, dispositivi sia le nostre città perpetuano sulle onde. E se poi vi incuriosiscono anche segnali che mandano i satelliti che sono sparsi nello spazio, potete anche ascoltare intercettare quelli. La stazione internazionale, cose abbastanza incredibili. Durante poi il dibattito, adesso vi facciamo ascoltare una cosa brevissima che abbiamo tagliato per voi perché ci è sembrata carina, e che alla domanda, fondamentalmente la risposta di un compagno alla domanda: ma come gestite voi la CIA, i diritti d'autore e queste faccende qua? Sentiamo la risposta. Guarda, ti racconto questa storiella. È una festa della radio, non so può raccontare, sì. Siamo tra amici in diretta radio. A una festa della radio si presentarono, spesso si presenta la SIAE, a questa festa in particolare c'era all'ingresso c'era un punk inglese che stava rompendo molto la minchia, e gli è stato più volte detto che doveva andarsene via, no? Perché stava dando fastidio. Gli è stato detto più e più volte con maniere gentili. Alla quarta o quinta volta che lui era lì e ci provocava, un compagno, una persona, ha staccato una gamba da un tavolo e gliela ha fracassata in faccia. In coda per entrare alla festa c'erano una serie di persone, tra cui c'erano due tipi un po' strani che avevamo adocchiato, che hanno visto tutta la scena. Quindi questi qui si avvicinano dopo che il punk inglese sanguinante e sfregiato si allontanava e ci dicono: salve, noi siamo della SIAE. Al che li guardiamo e diciamo: guardate che vi aspetta la stessa cosa. E noi li abbiamo risolto così e risolviamo di solito così il problema del diritto d'autore. Non so se ho risposto alla tua domanda. Sì, ottimo suggerimento, che ne pensate? Sì, ottimo modo. Venghino, signori, venghino. Così, è andata diritto così. D'autore. È andata così. Diritto, ragazzi, in testa. Ma quanto si chiacchiera? Sì. Ma sarà il caso di parlare, di sentire un po' di musica? Sì, sentiamo, facciamocela anche raccontare un po' di musica, di quella buona, di quella... Oggi poi sì, un po'... Forse perché vediamo meglio smorzare un pochino i discorsi che si fanno da seri a troppo seri, non se ne esce. Assolutamente, sì, ci si ingrippa, bravo. E come quindi, si fa a sgripparci? Non lo so, per ora io vedo una situazione di panne totale. Però io tipo, propongo un c'è, grip. C'è, sul pezzo. Quando peschi tipo, non grippo, fuori la trota dal... Eccola. Signori, attenzione. L'album della settimana. Borda. Eccomi. Bravo. Mi sentite? Sì. Sì? Tutto a posto? Sì, tutto a posto. Tutti bene? Buono, sì. Allora faccio partire in sottofondo il disco grippo della settimana, che tutti quanti secondo me conoscete a questo punto. Cioè, di sicuro tutti quanti conoscete. Però sono cavoli vostri, ve lo presento lo stesso, perché questa settimana, attenzione, sono i 45 anni da uno dei dischi considerati da universalmente, penso, uno dei più grandi dischi della storia della musica proprio. Stiamo parlando dei Pink Floyd. E andiamo ad affrontare il disco che è stata la loro grande svolta dal punto di vista commerciale, che è appunto Dark Side of the Moon del 1973. Nel frattempo, in sottofondo vorrei farvi partire un pezzo, ma per adesso non ci sto riuscendo. Aspettate un attimo, eccoci, buono. Ora parte con calma, perché il primo pezzo è Speak to Me e incomincia con un battere cardiaco che è l'inizio e la fine del disco, ma andiamo prima di tutto a fare un attimino di introduzione su quello che sono stati i Pink Floyd fino al momento dell'uscita di Dark Side of the Moon. Si sta sentendo qualcosa? Il nulla. Beh, mo' ve cacciamo. Scusate, senza Pink Floyd, scusateci su Radio Wombat, scusateci qui in diretta su Wombat. È un po' così, vero? Sì, è un po' così proprio, chissà. Comunque, se vuoi intanto no, Boni, aspetta un attimo. No, nulla, va bene, silenzio no, vai. Siderale. Ah no, va bene, no, siamo qua. Dicevamo, dopo questa, vediamo un po' cosa ci propone il nostro amico Grippo. Io il disco, effettivamente, come diceva lui, lo conosco abbastanza e è bello. Allora, altro rilass, magari ci distende un po' l'anima. Sì, infatti, dato che son giorni un attimino così, ecco. Allora, eccoci, ci siamo. Vai. Buono. Nel frattempo parte sotto Speak to Me con il battito cardiaco. Bella. Iniziale e conclusivo di Dark Side of the Moon del 1973. Andiamo a parlare un attimino dei lavori pre dei Pink Floyd. Allora, loro hanno sfondato finalmente con, sulla scena internazionale con Dark Side of the Moon, ma prima ci sono stati vari altri percorsi. Infatti i Pink Floyd hanno aperto la loro carriera con dilatazioni, atmosfere fantascientifiche che hanno aperto alla creazione dello space rock, del genere dello space rock, e grandissimi precursori della musica psichedelica. In particolare la figura di Syd Barrett è stato influente nella ricerca sonora e nella creazione dei primi lavori dei Pink Floyd, che si riassumeranno poi nel primo disco, Piper at the Gates of Dawn. Allora, eccoci qua. Andiamo a illustrare un attimino brevemente, mentre nel frattempo sotto sentite partire meravigliosamente l'inizio del primo vero pezzo di Dark Side of the Moon, che è Breathe, di cui andremo a parlare più tardi. Dicevamo, un primo periodo dei Pink Floyd dove abbiamo Piper at the Gates of Dawn con Syd Barrett, dopodiché la follia di Syd Barrett che aveva iniziato a suonare live pezzi diversi rispetto a quello che suonava il resto del gruppo, suonava con accordature diverse, e poi dopo vedremo anche questo, in different tunes, accordato in maniera differente rispetto al resto del gruppo. Impazzito definitivamente, insomma, inizialmente coadiuvato, poi sostituito dall'amico David Gilmour. Si va nel 68 verso il secondo disco, A Soulful of Secrets, ultimo disco che vede i contributi di Syd Barrett, dopodiché l'uscita di Barrett dai Pink Floyd e anche dei loro manager fino ad adesso. Jenner e King vanno dietro a Barrett in quanto avevano scelto lui rispetto ai Pink Floyd, pensando che lui potesse andare avanti con idee e musica nuova. I Pink Floyd non gli dava una cicca, invece si è visto poi com'è andata. Continuando, i Pink Floyd sono rimasti Gilmour, Waters, Wright e Mason. In particolare Gilmour, Waters e Wright si sono curati della composizione di tutti i lavori successivi dei Pink Floyd, e hanno fatto vari tentativi, diciamo. Ci sono state nel 69 e nel 71, nel 72, un paio di album, colonne sonore di film che hanno comunque riscosso un discreto successo. Erano entrambi per il primo More e il secondo Obscured by Clouds, entrambi per dei film di Barbet Schroeder, il primo More e il secondo La Vallée. Nel 69 abbiamo anche un disco che è stato definito una mezza tragedia, un esperimento, una somma delle parti del gruppo, dipende da tutti, da Gilmour, Waters e Wright, appunto, che è Amalgama. Nel 70 e nel 71 abbiamo due dischi molto interessanti, che sono Atom Earth Mother e poi Metal. Atom Earth Mother, in Atom Earth Mother si inizia a vedere l'intento dei Pink Floyd di uscire dalla psichedelia pura e andare e contaminarsi con il progressive rock, diciamo, raggiungendo poi, ecco, la forma che stiamo sentendo qua sotto, che avranno poi negli album successivi. Atom Earth Mother e Metal sono entrambi album che su un lato, all'epoca, no, i dischi erano lato A e lato B, su un lato hanno vari pezzi interessanti, ma insomma tagliati in maniera pseudo normale. Sul retro, delle suite strumentali molto belle. Atom Earth Mother si chiama per l'appunto Atom Earth Mother la suite. In Metal c'è la suite Echoes, considerata una delle cose più belle che siano mai venute fuori dai Pink Floyd. Una curiosità su Atom Earth Mother: il titolo Atom Earth Mother viene ispirandosi da un articolo di giornale riguardante una donna con pacemaker che era riuscita a partorire. Una curiosità, e questa la sparo per l'appunto al mio amico Glenn Del Lago, che Stanley Kubrick chiese di utilizzare Atom Earth Mother come colonna sonora per Arancia Meccanica. e i Pink Floyd dissero no no, avevano paura di Perché gli dissero no no? Dicevano paura di cattiva pubblicità derivante da tutto ciò. Ah, pitch, che scemi. E infatti Kubrick poi dopo si è vendicato, perché gli hanno chiesto di utilizzare successivamente la voce del computer di 2001 Odissea dello spazio. E lui gli ha detto puppa, gli ha detto che gli ha detto Kubrick. E quindi niente, collaborazione Pink Floyd Stanley Kubrick no buona, male male. Arriviamo, insomma, siamo a Metal del 71, poi Obscured by Clouds, ne avevamo già parlato da un'altra colonna sonora. 1973 ci arriviamo finalmente, 10 marzo, quindi questa settimana, quindi lo facciamo proprio questa, i 45 anni, The Dark Side of the Moon. Apertura del disco l'abbiamo sentita, abbiamo avuto questo battito cardiaco che fa da inizio e da conclusione all'album, un concept album con testi tendenzialmente poetici che riflettono sulla condizione umana, e un concept album vero e proprio anche dal punto di vista musicale, con riferimenti alle altre canzoni, in tutte le altre canzoni sono molto legate. La prima firmata Nick Mason, Speak to Me, l'abbiamo sentita, sono tutti suoni, rumori, risate che poi ricorreranno nell'album. Apre a Breathe, canzone bellissima che abbiamo sentito in sottofondo, ne traduco una parte, abbiamo una prima strofa che è proprio, descrive proprio un parto, no? Breathe, breathe in the air, don't be afraid to care, leave but don't leave me, look around, choose your own ground. È una mamma che dice respira, respira l'aria, non essere spaventato di pensare, di interessarti, leave, nel senso vai via ma non lasciarmi, guarda intorno e scegli la tua terra. Dopodiché c'è una metafora su un coniglio, run rabbit run, dig that hole until forget the sun, and when the work is done, don't sit down, it's time to dig another one. Nel senso, scava un buco ma poi tanto ce n'è da scavare un altro tra pochino, insomma fai le buche, esatto, più o meno sì. Alla fine si parla di onde, only if you ride the ride, balanced on the highest wave, race toward an early grave. Qui si inizia a trovare riferimenti a Syd Barrett impazzito qualche anno prima, nel senso in equilibrio sulle più alte onde, tu vai verso un early grave, una tomba precoce, prematura. E andiamoci a sentire però il pezzo numero 4, uno dei pochi album pezzi dei Pink Floyd scritti da i quattro Floyd tutti quanti insieme, e si intitola Time. Ce la sentiamo, viva! Thank you. Sfuma Time e Attacca dei Green Chicken in the Sky. C'era una domanda, mi pareva. No, non c'è. Aspetta, ci sarebbe una domanda. Eccola, eccola. Fammi questa domanda, vai. Senti, forza. Ma tutti questi nomi un po' strani, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, da dove l'hanno tirato Pink fuori? Floyd l'ha tirato fuori Syd Barrett. All'inizio lo si chiamavano i T-Break, T-Set, una cosa del genere. T-Rex, se no. No, T-Te, erano in English. E poi hanno scoperto che questo gruppo l'aveva bello preso qualcun altro. E cioè, questo nome l'aveva bello preso qualcun altro come nome di gruppo. E quindi hanno fuso i nomi di due bluesmen, Little Pink Anderson e Floyd Dipper Boy Council. E quindi hanno preso Pink Floyd ed era inizialmente The Pink Floyd Sound. E Sound è andato via subito immediatamente e hanno registrato come The Pink Floyd fino agli anni 70 e poi Pink Floyd semplicemente. Eccola qua la risposta. Insomma, abbiamo sentito Time, una canzone bellissima dal punto di vista testuale, mentre qua sotto ci va The Great Gig in the Sky, Il Grande Spettacolo del Cielo, fatta da Claire Torrey, una cantante raccattata da Alan Parson, che era il loro tecnico audio, alla quale erano state date soltanto due piccole parole come istruzione, vale a dire gli era stato detto non ci sono parole, questa canzone riguarda la morte. Lei ha fatto 5-6 take di questo delirio di assolo vocale e poi è stata scelta la seconda, e tra l'altro non è stata nemmeno pagata un cavolo. Nel 2005 ha dovuto rifare causa, gli hanno dato i soldi per The Gig in the Sky, che inizialmente, insomma, Steve Pink Floyd un po' sì, erano per i soldi, insomma, hanno scritto money, però per i soldi, insomma, non è che sono proprio irreprensibili, gli garbavano. Dicevamo di Time, ci tenevo un attimino a tradurre una parte di Time, cioè l'abbiamo sentita, Time, diciamo, contiene la canzone Time e il reprise di Breathe. E infatti nell'ultima strofa riprende proprio gli accordi di Breathe e la canzone Breathe, proprio si nota uno dei casi di riprendere parte di un altro pezzo di quest'album. La prima strofa di Time parla della gioventù, waiting for something or someone to show you the way, aspettando qualcuno che ti mostri la via, ticking away all the moments that make up a dull day, segnando tutti i momenti che insieme fanno un giorno triste, tired of lying in the sunshine, staying home to wait the rain, sei stanco di stare disteso al sole o aspettare stare a casa a guardare la pioggia, and then one day you find, qua siamo nel ritornello, 10 years have got behind, no one told you where to run, you miss the starting gun, dice, a un certo punto ti trovi e sono passati 10 anni e nessuno te l'ha detto quando iniziare a correre, tu hai perso the starting gun, la pistola, lo sparo della partenza, and you run, corri per andare a prendere il sole, ma sta tramontando e sta facendo il giro per ricomparirti dietro alle spalle. Il sole è sempre lo stesso di quando eri giovane, ma adesso sei più vecchio, più corto nel fiato e un giorno ancora più vicino alla morte. E alla fine c'è bellissima la fine quando riprende Breath, dice home, home again, cioè lui che torna a casa. I like to be here when I can, mi piace stare qui quando posso. Si scalda al fuoco e si sente, viene fatta questa immagine: far away across the field, the tolling of an iron bell, lontano lontano attraverso i campi c'è il ticchettio di una, il rimbombare di una campana, che chiama i fedeli a inginocchiarsi, per sentire, to hear the softly spoken magic spells, a sentire le sussurrate magic spells, come le magie sussurrate, appunto le magie magiche. Nel frattempo sentiamo sotto il registratore di cassa di inizio di Money, il sesto pezzo che va dopo Gridging in the Sky, che si va nel lato B di Dark Side of the Moon, un pezzo singolare anche soltanto perché sono riusciti a è il pezzo dei Pink Floyd, ok, uno dei pezzi più famosi della storia del rock, ed è in 7/4, cosa incredibile, perché è un tempo e un intercedere solitamente riservato a pezzi di nicchia, non a pezzi molto conosciuti. Va anche in 4/4, però questo in alcuni momenti, ma questo per ammissione di David Gilmour, era per rendersi la vita più facile, per facilitarsi un po' nell'assolo di chitarra, sì, esatto. E parla del delirio dietro ai soldi, al possesso di cose, insomma, come si può intuire anche dalla musica, ecco. Poi si va alla traccia numero 7, Us and Them, che tratta, diciamo, di umanità, un pezzo di critica alle guerre, in particolare nei paesi poveri, ma anche con uno sguardo alla povertà nel mondo occidentale. Dopodiché si va a un altro degli strumentali basati su un paio di accordi semplici e le improvvisazioni di synth, che è Any Color You Like. Ve lo metto qua in sottofondo. Aspettate, adesso abbiamo Money e ora vi sparo Any Color You Like. E andiamo invece a farvi sentire gli ultimi due pezzi del disco, che sono invece in suite, vale a dire vanno uno dietro a quell'altro, e quindi si può considerarli praticamente un pezzo unico, che sono Brain Damage e Eclipse. Brain Damage nello specifico è dedicata, come molti pezzi poi, basta pensare a Shine On You Crazy Diamond della discografia delle Zeppelin, a Syd Barrett, il frontman impazzito dei Pink Floyd. Cosa dice Brain Damage? Ora ci andiamo a ascoltare. The lunatic is in my head, il lunatico è nella mia testa, vale a dire il pazzo è nella mia testa, dentro di me. And if the clouds burst thunder in your head, dice se le nuvole fanno un tuono nel tuo orecchio, you shout and no one seems to hear, te urli e nessuno sembra sentire, e qua appunto si ritorna al riferimento che avevo fatto all'inizio. And if the band you are in starts playing different tunes, I'll see you on the dark side of the moon. Se la banda, se il gruppo che ti piace, con cui stai suonando, inizia a suonare in different tunes, vuol dire accordato in maniera diversa, io ti vedrò sul lato oscuro della luna. E poi c'è un'altra parte, dice The lunatic is on the grass, che dice è ispirata a un cartello che aveva trovato al college Dodger Waters, dove c'era scritto vietato attraversare il prato. Classico. Che invitava a rimanere sul selciato, e invece il lunatico, il pazzo, è quello che va sul prato, è quello che, diciamo, trascende le regole e riesce a trovare un altro punto di vista della società. E si finisce con Eclipse. Ora ce li sentiamo tutti e due. dove viene detto all that you touch, all that you see, all that you taste, all that you love, insomma tutto, everything under the sun is in tune, tutto ciò che è sotto al sole è accordato tra sé, but the sun is eclipsed by the moon. Questa è la fine, e dice il sole è eclissato dalla luna, e si sente poi il battito cardiaco che c'era all'inizio del disco, Reprise, che ci riporta di nuovo al fatto che il disco parla dell'uomo di base, e si sente in sottofondo una voce del portiere degli studios di Abbey Road, dove è stata registrata da Cloud of the Moon, che dice there is no dark side of the moon, really, matter of fact it's all dark, the only thing that makes it look a light is the sun. Dice, insomma, la luna in realtà è tutta scura, l'unica cosa che la fa sembrare luminosa è il sole. E niente, sentiamoci questa chiusura di questo meraviglioso disco, scontatissimo, come prima o poi sarebbe venuto, però fuori, cioè bisognava farlo, dai, sono 45 anni e niente, alla faccia di tutti quanti, noi ci sentiamo ancora Dark Side of the Moon, viva! Eccolo qua. Brain Damage, ciao Wombats. The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall. The lunatics are in my hall. The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy brings more. Open many years too soon. And if there is no moon upon the hill, and if your head explodes, the dark proposes too, I'll see you on the dark side. In my head, the lunatic is in my head. You raise the blade, you make the change, you rearrange me till I'm sane. You lock the door. Throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. And if the cloud bursts thunder in your ear, you shout and no one seems to hear. Band you're in starts playing different tunes. I'll see you on the dark side of the moon. Approfitto di questo momento di strumentale per dire qualcosa sulle voci sotto a Dark Side of the Moon. Ce n'era, qui ci sono alcune risate di Richard Wright, alla fine di Money c'erano registrate varie risposte delle persone riguardo l'ultima volta che avevano usato violenza. C'è il famoso I certainly was in the right, io ero sicuramente, avevo sicuramente ragione. Nel frattempo parte Eclipse, vai! E si torna al battito cardiaco con cui avevamo cominciato questo excursus su The Dark Side of the Moon. E niente, mentre questo battito cardiaco ci accompagna, ci apprestiamo a continuare a svoltare in questa puntata. In direzione andiamo, Glande Drago? In che direzione andiamo? Andiamo con una bella rubrichetta, giusto? Ce ne stiamo in punta di? Nel frattempo si manda uno spottino. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore. Eccoci, tornati. Sì, peccato, era bellissimo. Dai, il sottofondo. È sparito il sottofondo. Era bello, mi piaceva. Sparacelo. Ecco, dai, ci si carica. In punta di pedali, è tornato. Vi siamo mancati, vero? Sì. No, sì. Vai. No. Bene, allora. Non aspettarti troppo. Siamo veloci. È tornato in punta di pedale la settima puntata. Quest'oggi anche te fai la suddivisione come Tommaso Aspetta. Sì, certo, mi sono ispirato. Salutiamo ovviamente. Ciao Tommaso Aspetta. A presto. Allora, parliamo di biciclette, naturalmente. In punta di pedale è una rubrica che si occupa di ciclismo urbano e non. In questo caso c'è il ciclismo urbano e anche di più, perché si tratta di ciclismo urbano internazionale. Abbiamo spesso parlato del valore che va al di là del mezzo di locomozione che la bici prende, in molti casi ha un valore politico. Abbiamo parlato dei provost, ma potremmo parlare della resistenza italiana, dove le biciclette sono state delle ottime staffette. Potremmo parlare della guerra del Vietnam, dove era uno dei principali mezzi dei Viet Cong. Questi sono luoghi lontani. Ma tornando a luoghi vicini e tornando soprattutto all'oggi, dobbiamo assolutamente parlare del Giro d'Italia. In un certo modo ne parliamo, in quanto questa, l'edizione 2018 del Giro d'Italia, che è la 101 se non mi sbaglio, partirà niente poco di meno che da Israele. Questo naturalmente ha portato a diverse proteste, si sono levate diverse voci a contestare questa scelta che è stata presa da chi, ce lo faremo dire da un da un attivista di BTS Italia, che è venuto qui a trovarci. Buonasera. Buonasera. BDS vuol dire boicottaggio, disinvestimento, sanzioni. È una pratica che fu implementata in modo estensivo nei confronti del Sudafrica dell'apartheid 20 anni fa, e fu efficace perché fu uno degli strumenti che fece cadere alla fine l'apartheid in Sudafrica. Ora attualmente questo strumento viene implementato nei confronti di Israele, che è uno stato dell'apartheid, perché è uno stato dove l'addizione, la legge uguale per tutti, non vale, cioè la legge è diversa a seconda che si sia di un'etnia o di un'altra etnia, a seconda che si sia ebrei oppure che si sia palestinesi, che loro, insomma, che gli israeliani chiamano con il termine generico di arabi, ma i palestinesi, cioè sono quelli che abitano e che abitavano la Palestina prima che ci fosse l'invasione, la colonizzazione degli ebrei europei, non degli ebrei africani, che pure erano tanti, ma dagli ebrei europei. Diciamo che il sionismo, così come l'antisemitismo, sono invenzioni degli europei, non dei locali, non degli africani. Bene, ma torniamo alla bicicletta. Allora, questo fatto che il Giro d'Italia parte da Israele quest'anno, la gente nemmeno ci crede. Io le prime volte che lo dicevo non ci credevano, diceva: ma come, da un paese dove c'è un conflitto territoriale così aspro, perché poi quello che si vede in televisione sono solamente le fasi sanguinose di questo conflitto, e molto raramente, e se ne parla molto poco, ma comunque quando se ne parla solamente quando c'è l'accoltellamento, quando c'è l'arabo cattivo, quando succedono cose di questo genere. Bene, allora come è venuta questa idea di far partire il Giro d'Italia da un luogo dove c'è un conflitto territoriale? Ma non solamente questo, ma come vi dirò tra poco, in questo conflitto territoriale viene appoggiata una delle parti in conflitto, e segnatamente viene appoggiata la parte più forte, cioè la parte dell'esercito occupante israeliano. Perché non so se la cosa è nota, ma la Palestina è in parte costituita dallo Stato di Israele e in parte costituita dalla Palestina storica, dalla cosiddetta Cisgiordania. Ecco, la Cisgiordania è occupata dallo Stato dall'esercito israeliano dal 1967. Cioè Israele, riconosciuta dalle convenzioni internazionali, dall'ONU, dalle Nazioni Unite, ha determinati confini, definita da una linea di armistizio, che fu l'armistizio del 1948. Ma comunque, insomma, ecco, io vorrei farti una domanda. Dimmi. Volevo appunto tutta la storia palestinese, complessissima e veramente lunga, e non possiamo purtroppo raccontarla tutta, però ecco, quello su che ti volevo chiedere in particolare è quali sono gli interessi in gioco, cioè perché un carrozzone come il Giro d'Italia ha deciso di fare credo più di una tappa nello stato in Palestina, ecco, nello stato di Israele. Dunque, la faccio lunga ma breve. Dunque, noi abbiamo imparato a scuola che nell'antica Grecia Olimpia era il luogo della pace, cioè quando ci c'erano le Olimpiadi tutti smettevano di fare la guerra, le diverse città greche. Quindi lo sport dovrebbe essere inteso come strumento di pacificazione. Ecco, in questo è di rimedio dei conflitti. Invece in questo caso che cosa succede? Che Israele paga e non poco per avere la partenza del Giro d'Italia da Gerusalemme Ovest, cioè dalla parte di Gerusalemme che appartiene allo Stato di Israele. paga 16 milioni di euro per questo, paga 12 milioni più 4 milioni di euro a RCS Media Group, che è l'organizzazione del giro. Quindi c'è un interesse commerciale in questo, ma c'è una nota da fare, che quando è stato pubblicato in Italia sulla Gazzetta dello Sport, che appartiene a RCS Media Group, che il Giro d'Italia partiva da Gerusalemme Ovest, perché Gerusalemme è divisa in due, c'è la parte israeliana e poi c'è la parte palestinese che comprende la Città Vecchia. Ecco, la linea, diciamo, la linea di confine passa in mezzo alla città, quindi c'è una Gerusalemme Est e una Gerusalemme Ovest. Quando sulla Gazzetta dello Sport è apparso che il giro partiva da Gerusalemme Ovest, c'è stata un'alzata di scudi da parte del governo israeliano, che ha detto: non esiste una Gerusalemme Ovest e non esiste una Gerusalemme Est, esiste una sola Gerusalemme, la nostra. Cioè, Gerusalemme è unica, secondo Israele, e appartiene tutta a Israele. Cioè, e a questo punto i nostri organizzatori, questi di RCS Media Group, hanno detto: ah, scusate, è un errore che non ripeteremo più. Perché quelli avevano minacciato, se fosse rimasta la dizione Gerusalemme Ovest, che non avrebbero più dato i 16 milioni di euro. A questo punto i nostri si sono calati le braghe. Ecco. Quindi facendo un sunto, praticamente Israele ha comprato da RCS i diritti per RCS ha comprato da Israele i diritti per poter dire che Gerusalemme è unica, non è divisa. Esatto, ma c'è da chiedersi questo, a che tipo di conflitti darà luogo, anche perché teniamo conto delle date. Il Giro d'Italia parte il 4 di maggio da Gerusalemme Ovest, poi fa altre due tappe dentro Israele, ma il 15 invece maggio, quindi il 4 maggio parte il Giro d'Italia. Il 15 maggio è l'anniversario della Nakba cosiddetta, o vista dall'altro punto di vista, dal punto di vista israeliano, la proclamazione dello Stato di Israele. Quando fu proclamato lo Stato di Israele, furono estromessi dalla Palestina 850.000 palestinesi, cacciati via a forza con la violenza, stupri, violenze di ogni genere, massacri. E furono distrutti 500 villaggi. Quindi, quando questo siamo a ridosso di una data che è estremamente delicata, e c'è da chiedersi questo cosiddetto Giro d'Italia che parte da Israele quante vittime farà. Ecco, perché c'è da preoccuparsi essenzialmente di questo. Ecco, sì, io volevo solamente ricordare che RCS Media Group è un appunto un gruppo editoriale che è molto grosso, che appunto possiede sia la Gazzetta dello Sport, sia il Corriere della Sera, sia tantissime altri quotidiani e altre riviste settimanali molto lette, e tra gli azionisti ci sono niente poco di meno che il principale azionista è Cairo, per poi andare via via con Mediobanca, i nostri amici della Valle e qualche altro azionista di minoranza. Qualche altro azionista di minoranza. Ora, prego. No, volevo dire che insomma, schierarsi con l'occupante è sbilanciare una situazione, non favorirne la soluzione di un conflitto. Insomma, lo sport dovrebbe invece fare proprio aiutare la soluzione dei conflitti. Storicamente è stato così, cioè Cina e Stati Uniti si sono avvicinati attraverso una gara di ping pong inizialmente, e così dovrebbe essere. Invece in questo caso, per questione di soldi, si appoggia una delle parti in conflitto e si rischia di esacerbarlo il conflitto invece che andarne alla soluzione. Allora, ok, purtroppo il nostro tempo è poco, però io prima di lasciarti vorrei appunto focalizzare l'attenzione su quello che state facendo per contrastare questa cosa, e in particolare avete un evento il 10 di questo mese, giusto? Sì, di biciclette si parla nel giro, e con le biciclette noi rispondiamo. Perché dunque in una decina di città d'Italia e a livello internazionale, perché è stata indetta una giornata contro questa decisione della partenza del Giro di Israele, intitolata Cambia Giro, Cambia Partenza, e ci saranno manifestazioni a Ravenna, Vicenza, Udine, Torino, Bologna, Catania, Napoli e Firenze, naturalmente. A Firenze faremo una sorta di critical mass tematica cosiddetta, cioè che avrà delle bandiere palestinesi, avrà cartelli, adesso non vi dico come saranno messi i cartelli, ma vedrete che ci saranno, e partirà da Piazza Santissima Annunziata alle 4 del pomeriggio di sabato 10, sabato prossimo, e si farà un giro per la città, sarà un giro ordinato, nel senso che si rispetta la viabilità, si rispettano i semafori, cioè non sarà un corteo di biciclette, sarà un giro per la città, una critical mass, e finirà poi in piazza della Signoria. Benissimo, non è l'unica azione, perché ho visto che avete anche state lanciate anche dei flash mob, così come anche avete suggerito degli hashtag da pubblicare, quindi su più fronti. Abbiamo fatto, posso un'ultima sì, cosa? Prego. Ecco, abbiamo fatto un'altra biciclettata, è stata al Museo Bartali, perché tra le varie strumentalizzazioni, cioè questa strumentalizzazione del Giro d'Italia, ma anche della figura di Gino Bartali. Ora, Gino Bartali aiutò gli ebrei durante la guerra, che erano allora gli oppressi, ma che cosa ti direbbe oggi Gino Bartali? La ribalterebbe probabilmente. ricordiamo la frase di Primo Levi, che gli ebrei di oggi sono i palestinesi. Esatto, verissimo. Con questo ti dobbiamo lasciare, è stato un piacere averti qua. Grazie mille. Ci vediamo molto probabilmente in bicicletta il 10. Wombat. Eccoci. Sì, rieccoci qua. Mi infilo un attimo a gamba tesa. Bravo. Perché nel frattempo ci è arrivata un'altra chiamata dal compagno che sta seguendo il corteo. Cosa sta succedendo? In pratica c'era Pap che è salito su nel palazzo per parlare con le istituzioni. Nel frattempo la piazza, come ci descriveva il compagno, è molto agitata, molto controversa, molto divisa al punto che è venuta la rottura, nel senso che la maggior parte della piazza è partita in corteo, pare direzionati verso la stazione. L'invito è ancora a raggiungere e partecipare al corteo, e appena avremo altre informazioni ve le daremo. Appunto, non è certo che vada, che si sta muovendo, ma appunto ci riporta sempre la stessa c'è persone che cercano di frenare, persone che spingono divisione. Per andare, molte divisioni, molta confusione, molta rabbia, molto dolore, quindi è importante, niente. A maggior ragione esserci. Esatto, se ci sono altri aggiornamenti, per adesso è questa l'indicazione. La Signoria si sta muovendo verso la stazione. Okay. Bene, direi mandiamo un pezzo. Mandiamo un'ultima canzone e poi addirittura un'ultima intervista. Sì, un'ultima intervista, oggi un sacco di cose. Un sacco di cose, ma addirittura dall'altra parte del mondo, mi sa. Yep. Dai, yeah. Beh, canzoncina in onore di Belushi, John, morto nell'82, 5 marzo, quindi anniversario. Viva Wombat. Yeah, baby. Yeah, I've been drinking. And I shouldn't come by, no. But I found myself in trouble, darling. And I had no. Got some whiskey from a barman ragazzo cookie from my friends. I gotta keep on moving, baby, till I'm back in your arms again. Guilty. You're so guilty. And I'll be guilty for the rest of my life. How come, baby? How come I never do what I'm supposed to do? How come everything I try never turns out right? You know how it is with me, baby. You know I just can't stand myself. It takes a whole lot of medicine, darling, for me to pretend that I'm somebody else. Looks like that verdict is in. My brother Jake is guilty. Buono. Allora, siamo arrivati alla fine. Quello che dicevamo, esatto, l'altra parte del mondo, grandi. In realtà siamo un po' corti con i tempi. Non ci piace fare le interviste di corsa, perché non ci piace correre, ci piace poltrire. Sì, e poi ci sarebbe anche tutta una questione linguistica di traduzione, esatto, quindi in 10 minuti. Non scherzavamo quando dicevamo dall'altra parte del mondo. Si parla quindi Sud America, Sud America. Quindi quando voi non ci sentite più, noi continueremo a lavorare, registreremo questa intervista, ve la faremo sentire nella prossima o nelle prossime puntate, quando più ci aggraderà a noi e solo a noi. E detto questo, tra poco ci sentiamo per la rassegna degli eventi della settimana. Bella densa, direi. Sì, abbastanza densa. Abbastanza densa. Noi oggi abbiamo fatto un sacco di cose. In realtà abbiamo corso come matti, ma siamo riusciti a parlare di non uno di meno, del corteo dell'otto, di quello che è successo in polveriera all'Emerson in questi 2 giorni di lancio. Ricordiamo 13:59 AM. È importante per il Wombat questo passaggio. Se non funziona è colpa delle vostre radioline, ovviamente. Assolutamente. È colpa nostra. Certo. Noi abbiamo una super antenna che potrebbe arrivare, esatto, a New York. No, in realtà, appunto, se dovreste sentire su Firenze, non in tutte le zone allo stesso modo. Anzi, ci segnalate, esatto, dove si sente, dove non si sente bene, dove non si sente, o anche posti strani da cui si prende, perché dovrebbe succedere questa cosa. Sì, qui, sì, può succedere. Cioè, può succedere che si senta bene. Se foste venuti al workshop di Ascolto Radio, avreste scoperto un sacco di scoperto cose. Però tutto è stato registrato, esatto, e c'è già il podcast sul sito che è wombat.noblogs.org con gli interventi del dibattito e con il workshop intero. Quindi se vi siete curiosi, andatevelo a sentire. Detto questo, noi possiamo anche salutarci. Ci salutiamo, ma non scappate, rimanete in linea, perché dobbiamo raccontarvi cosa succede, sì, della settimana. Ciao ragazzi, è stato un piacere. A lunedì. Ciao ciao. Fuoco alle polverine. Go hell, Paul Berry. Radio Bomba. This is Radio Bomba. Disposti a un compromesso. Se gli do i nomi? Ma guardi che si accontentano di molto poco. Gli dovrà dire solo un nome. Uno quale? Beh, dipende da lei. Hanno il coltello per il manico, la mandano in galera. Cos'è un nome? Se ha degli scrupoli, gli dica Hecky Brown. Hecky? Tanto è morto. Che cosa gli possono fare ormai? Vogliono un segno simbolico, tanto per dimostrare la sua buona fede. È pronto il testimone? Sì, signora Presidente. Signor Prince, le chiedo formalmente, lei conosceva Herschel Brownstein? Guardi, che lei va in prigione. Noto anche come Hecky Brown? Sia pratico. Lo conosceva come Brown o come Brownstein? Con qualunque nome ci basta. Glielo dica. Brown o Brownstein? Basta un nome. Si rifiuta di dare una risposta? E su, parli. Miei signori, io non riconosco a codesta commissione il diritto di venirmi a fare domande del genere. E, non di meno, andate leggermente a pigliarvelo.